Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Oggi I Magnifici Destini ha un compito molto arduo. Sì, perché la nostra puntata è dedicata al più grande cantante di tutti i tempi. Colui che è considerato universalmente la quintessenza stessa del cantante, la sua personificazione pura, al di là dei generi musicali e del singolo gusto personale, tanto da meritare l'appellativo di The Voice, la voce. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Frank Sinatra. Basta il suo nome ed è già detto tutto. Che cosa potremmo aggiungere di nuovo, di non detto, su un personaggio del suo calibro, su un artista che ha collezionato tutti i riconoscimenti possibili, sul quale sono state scritte migliaia di pagine, girati chilometri di pellicola, un uomo che ha accompagnato intere generazioni diventando un vero e proprio monumento nazionale praticamente in tutti i paesi del mondo. Una vita vissuta fino all'ultimo respiro con forza, ma anche con follia, percorsa da grandi passioni, momenti distruttivi, depressioni, amori spezzati, amicizie discutibili, grandi successi e grandi dispiaceri, vissuta a modo suo. I did it my way. È un'impresa difficile per i magnifici destini. Eppure c'è una chiave di lettura del personaggio Frank Sinatra che esula dagli schemi tradizionali. Ed è questa la strada che intendiamo percorrere per raccontarvi, attraverso gli incontri che influenzano la sua lunghissima carriera, un Frank diverso, che forse non tutti conoscono. Il filo conduttore di questo percorso sta racchiuso tutto in una parola apparentemente stonata parlando di Frank Sinatra, ma che in realtà costituisce le fondamenta più nascoste della sua intera esistenza. Questa parola è disciplina. Tutto ebbe inizio quando frequentavo ancora la scuola. Avevo più o meno una decina di anni. La prima volta cantai nel coro della chiesa e capii che era quello che volevo fare. Allora iniziai ad esercitarmi tutti i giorni e a cantare sempre. Ogni volta che era possibile, specialmente davanti a un pubblico, a scuola, alle feste, era un allenamento sistematico. Se si pensa a Frank Sinatra, a chi non verrebbe da dire: beh, ma nascere con una voce così? E invece no. Frank non nasce con una voce così. Frank si allena. Come farebbe un velocista o un nuotatore, fin da piccolissimo capisce che deve studiare, che se vuole farcela deve impegnarsi, ma tanto e con costanza. Il grande compositore Henry Mancini, anche lui di origini italiane come Sinatra, fa risalire proprio alla matrice italiana del suo connazionale questo comportamento. Siamo testardi. Gli alti e bassi, l'incapacità di stare fermi, l'iperattività sono caratteristiche degli italiani, ma quando ci impuntiamo nessuno ci fa cambiare idea. E Frank era così. Quella sua costanza è stata la sua ancora. Frank non mette la stessa determinazione che mette nel canto anche negli studi. A 16 anni lascia la scuola e inizia la sua attività di cantante professionista. Si fa per dire professionista. In realtà canta gratis nei locali, nei ristoranti, facendosi pagare con un panino, una birra. Però queste performance per lui sono puro e semplice esercizio. La sua disciplina gli impone di cantare un certo numero di ore al giorno, di esercitarsi davanti a un pubblico, e quindi gli sta bene anche di non essere pagato. Siamo negli anni 30. La gran moda sono le band alla Benny Goodman e i cantanti rappresentano solo un contorno per il momento. Addirittura spesso le band non hanno proprio un cantante e se serve intonare una frase o due, c'è sempre qualche trombettista che se la sa cavare. Ma c'è qualcuno che non la pensa così. Ci troviamo alla Palmer House di Chicago. È il novembre del 1939. Tommy Dorsey, leader di una delle più famose swing band dell'epoca, è convinto che un bravo cantante possa completare, se non decretare, il successo di una formazione come la sua. Per questo sta cercando qualcuno che sostituisca Jack Leonard, la sua voce solista, che ha deciso di intraprendere una carriera in proprio. E naturalmente il nostro Frank è lì. Si è esercitato a più non posso, ha cantato per ore e ore, ha provato tutto il repertorio di Dorsey e sa che un'occasione come quella non se la può fare scappare. Frank è determinato, emozionato certo, ma è sicuro di sé. Quello che Dorsey sente lo soddisfa in pieno, tanto che solo due mesi dopo, a gennaio del 1940, Frank Sinatra debutta con la band al Coronado Theatre di Rockford. I'll never smile again until I smile at you. I'll Never Smile Again è solo uno degli oltre 40 successi che i due realizzano insieme. Non c'è che dire. Tommy Dorsey rappresenta senza dubbio il primo magnifico destino nella grandiosa carriera di Frank Sinatra, ma lo è soprattutto in riferimento a quell'aspetto di cui parlavamo prima, quella disciplina che caratterizza il comportamento di Frank durante tutta la sua carriera. L'influenza che Tommy Dorsey ha su Frank, infatti, non è legata tanto all'opportunità che il grande trombonista dà al giovane cantante, ma a quello che Sinatra apprende semplicemente guardandolo suonare. Ascoltiamo. Sinatra non ha mai sentito nessun altro suonare in quel modo. La cosa incredibile di Dorsey è la sua capacità di trattenere il fiato, per meglio dire, di soffiare nel suo trombone per un tempo incredibilmente lungo. Frank ne è addirittura scioccato. E perché, si domanda, non può lui utilizzare la propria voce come uno strumento musicale e sviluppare un fiato come quello di Dorsey per tenere le note altrettanto a lungo? Sarebbe il suo modo tutto personale di cantare, un modo diverso da tutti gli altri. Iniziai ad esercitarmi come un pazzo. Forse non mi crederete, ma mi immergevo nella vasca da bagno per giornate intere. Trattenevo il respiro il più a lungo possibile, fino a farmi scoppiare i polmoni. E piano piano divenni più allenato e iniziai a cantare sott'acqua. Lo so che chi mi avesse visto avrebbe pensato che ero pazzo, ma sapete una cosa? Se ti abitui a cantare sott'acqua, quando poi canti fuori dall'acqua, fai molta meno fatica. E l'impressione che dai è che stai facendo una cosa facilissima. Ve lo immaginate Frank Sinatra che canta completamente immerso in una vasca da bagno, con le bollicine che gli escono dalla bocca e il suono attutito dall'acqua? Ecco, questa è di certo un'immagine inedita del grande cantante, ma ci spiega in maniera perfetta perché tutti noi oggi lo chiamiamo semplicemente The Voice. I tecnici e gli esperti di musica riconoscono al grande interprete questa caratteristica unica, questa capacità decisamente notevole di tenere a lungo le note. Il suo magnifico destino, l'incontro con Tommy Dorsey e il suo trombone, unito alla sua tenacia, a quel forte senso della disciplina, trasformano Frank Sinatra in soli 2 anni in una star acclamata. Of a song, the melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new. Dopo 2 anni di pieno successo, Frank è pronto per camminare con le sue gambe, per lasciare Tommy Dorsey e la sua band. Ma c'è un motivo in più che lo spinge a intraprendere la carriera di solista ed è lui stesso a svelarlo. Decisi che qualcuno doveva sfidare Bing Crosby, perché lui aveva avuto lo scettro per, oh, non lo so, così tanti anni. Pensai, forse il pubblico è pronto per un nuovo cantante, un nuovo genere di cantante. E sapete cosa successe? Ah, si scatenò l'inferno. È il 30 dicembre 1942. Al Paramount Theatre di New York si terrà un concerto di Frank, ovviamente di sera. Ma già alle 4 del mattino da lì non si passa più. Frotte di Bobby Soxers, le ragazzine dai calzini corti che diventano un vero e proprio movimento di fan dello swing, aspettano solo lui, il mitico, l'unico, Frank Sinatra. E improvvisamente è diventato l'idolo delle teenager, il primo della storia. There's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Chi possa pensare che Frank piaccia perché è un bel ragazzo con quell'aria tra lo scanzonato e il maledetto che fa innamorare, o perché canta canzoni romantiche e le canta decisamente bene, commetterebbe un grave errore. Frank è tutto questo, certo, ma è anche molto di più. Il suo successo risiede proprio nella sua tecnica, in quel fraseggio così morbido, fluido, dato dalla sua capacità di mantenere a lungo il fiato. Un modo di cantare che risulta del tutto nuovo. Chi lo ascolta non sa il motivo, perché bisogna essere degli esperti per accorgersene, ma quello che arriva è una specie di velluto fattosi melodia. Tutto sembra semplice in lui. Cantare gli viene naturale, si potrebbe dire, ma non c'è proprio nulla di naturale nello stare immersi per ore e ore nell'acqua in apnea a buttar fuori fiato a pieni polmoni. Questa si chiama determinazione. Embrace me, my silk and laceable you. I'm in love with you. L'immediato periodo dopo la guerra, alla quale peraltro Frank non partecipa perché viene riformato per una perforazione del timpano, vede lo sviluppo di Hollywood e delle grandi major. Possibile che i grandi produttori americani si lascino sfuggire un bocconcino come Frank Sinatra? E infatti il giovane cantante inizia in men che non si dica una carriera cinematografica parallela a quella musicale, che lo porterà a girare oltre 50 pellicole. Tra i suoi primi film ve ne sono molti musicali. Forse Hollywood lo vede per il momento più come cantante che come attore. Ma i produttori si devono presto ricredere. Frank è altrettanto eccezionale come attore di quanto non lo sia come cantante. E questo non solo per le sue indubbie doti naturali, per il suo fisico asciutto e così particolare, con quegli occhi azzurri così acuti che bucano lo schermo, ma anche perché la stessa disciplina che Frank si impone come cantante la si ritrova pari pari nel Sinatra attore. Dopo un paio d'anni sul set e un certo numero di film di successo, Frank però ritorna a cantare. In fondo lui è partito di lì, e fare il cantante è quello che gli piace di più. La cosa che mi piace fare di più è cantare, e specialmente cantare una cosiddetta ballata, se ben scritta, perché se è veramente bella, è come una poesia in musica. Frank ritorna dunque a fare il cantante. Ma una brutta sorpresa lo attende, l'inizio di un incubo. È la sera del 26 aprile 1950 e ci troviamo al Copacabana, il famoso nightclub di New York. Frank sta cantando. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Improvvisamente smette di cantare. Si sta sentendo male. Non capisce bene cosa abbia, ma si deve fermare per la prima volta in vita sua. La diagnosi terribile non arriva a tardare. Emorragia alle corde vocali. Frank le ha sforzate troppo, cantando senza sosta, imponendosi ritmi serrati, senza mai concedersi un po' di riposo. Ma ora dovrà farlo per forza. Per lui è terribile, come racconterà in un'intervista del 1954. There was a very dark period in my career, about 1951. C'è stato un periodo molto brutto nella mia vita. Un periodo oscuro, e fu nel 1950-51. Lo definirei un periodo di lotta con me stesso. Frank non può cantare per diversi mesi e si può solo immaginare cosa stia passando. Una mattina, è il febbraio del 1951, sta passeggiando per Times Square, proprio davanti al Paramount Theater, quello stesso che solo pochi anni prima lo ha visto trionfare. Le scritte luminose del teatro pubblicizzano il concerto di quella sera. La star è Eddie Fisher. Le ragazzine, le Bobby Soxers, accalcate in attesa di poter acquistare un biglietto per vedere il loro idolo del momento, gridano «Eddie, Eddie!», esattamente come gridavano «Frankie, Frankie!». E lui ha la sensazione che la sua stella sia ormai tramontata. La depressione si impadronisce di lui e pensa perfino al suicidio. Ma poi gli arriva una notizia che cambia il corso della sua vita. Venne a sapere che la Columbia avrebbe girato un film tratto dalla novella di Jones, Da qui all'eternità. Il ruolo di Angelo Maggio era tagliato su di me. Lo dovevo ottenere assolutamente. In perfetto stile con il suo temperamento focoso, Frank inizia a tempestare Harry Cohn, presidente della Columbia, di telefonate, lettere, nelle quali addirittura si firma Angelo Maggio, per dimostrargli quanto sia entrato nella parte. La costanza e la determinazione con le quali Frank cerca di ottenere il ruolo sono impressionanti. Addirittura propone al produttore di lavorare per un compenso di 10 volte più basso del previsto. Alla fine ottiene la parte, e con essa l'Oscar come migliore attore non protagonista. Frank lo sapeva che quella parte era fatta apposta per lui. Ora è di nuovo in pista. E questo significa un rilancio incredibile per la sua carriera di cantante. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Frank finalmente è al top. La sua vita privata va a gonfie vele. Si è innamorato della bellissima attrice Ava Gardner, per la quale divorzia dalla prima moglie Nancy, e i due si sposano. È un'unione molto burrascosa e terminerà con un divorzio altrettanto burrascoso. Ma questo non impedisce a Frank di continuare a vivere in quel suo modo tutto particolare, a mantenere quella disciplina di cui si parlava e che lo accompagnerà per tutta la vita. Il grande cantante Vic Damone, anche lui di origine italiana, che lo conosce molto bene, in un'intervista recente racconta come Frank si preparava alle registrazioni. Non faceva mai le cose a metà, se doveva registrare una canzone. Lui la sera prima, anzi tutta la notte prima, si studiava le parole, le trattava come se fossero un copione. Sapeva come distribuire gli alti e i bassi, come fraseggiare, come trattenere il fiato per tenerlo il più a lungo possibile, in maniera da risultare fluido, morbido. Non lasciava niente al caso, e quando si presentava il giorno dopo la registrazione, era perfetto. E la sua perfezione si sente, non c'è che dire. Nessuno canta con la fluidità e la morbidezza di Frank. Nessuno fa le cose più pazzesche che possa fare un cantante, dando la sensazione che sia la cosa più semplice del mondo. È in questo modo che si guadagna quel soprannome che lo accompagna tutta la vita. L'unico a poter essere chiamato così. The Voice. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. The lady is a tramp. Uno dei cavalli di battaglia della voce per eccellenza. Il nostro protagonista di oggi, Frank Sinatra. Stiamo cercando di comprendere quale sia la sua tecnica vocale, le sue caratteristiche tanto uniche che fanno di lui il cantante più conosciuto e riconoscibile al mondo. Non solo una dote di natura, un timbro unico, ma anche il risultato di anni e anni di continuo esercizio, di respirazione particolare, di allenamento in apnea sott'acqua per imparare a trattenere a lungo il fiato e permettersi note prolungate come nessun altro. Lo stesso Frank, in un'intervista del 1988 a Larry King, parla di come si allena. I hum a lot when I vocalize. Io canticchio a bocca chiusa spesso, lo faccio quando vocalizzo, perché muove tutta la parte centrale del viso e fa molto bene. Ho scoperto che anche Pavarotti lo fa. E una volta che l'ho incontrato gli ho chiesto: maestro, ho difficoltà a chiudere una nota e portarla ad essere sottile come un coltello da burro. Secondo lei cosa dovrei fare? E lui mi ha risposto: devi solo chiudere la bocca. Era la risposta che cercavo e sono quasi caduto sul pavimento per il colpo. Pensavo che mi avrebbe fatto una dissertazione su come tenere una nota a lungo, che peraltro è molto difficile da fare se vuoi realizzare un diminuendo. E invece mi ha detto semplicemente di chiudere la bocca. Frank è un maestro a tenere a lungo le note. Glielo ha insegnato il primo magnifico destino della sua vita, il trombonista Tommy Dorsey, con il quale inizia la sua carriera di cantante professionista e ottiene il successo. Ma Frank Sinatra fa un altro incontro decisivo, con un cantante attore che diventerà suo amico per la vita e che specialmente in alcuni momenti saprà essere prezioso anche sul piano professionale. Ascoltiamo questa voce incantevole. When the stars make you drool just like a pasta fazzola, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. Dino Paul Crocetti, meglio noto come Dean Martin, anche lui di origini italiane come Frank Sinatra, anche lui dotato di una voce suadente e ammaliatrice, considerata la voce più sexy d'America. È lui il secondo magnifico destino nella vita di Frank Sinatra. Sta cantando al Rio Bamba, un noto nightclub di New York. E il 1943, nello stesso locale prima di lui, ha appena cantato Frank. I due si conoscono in quell'occasione, la loro amicizia nasce così, tra il successo di Frank che manda in delirio i presenti e il flop di Dean, che quella sera proprio non riesce a entusiasmare il pubblico. Dean Martin is a man who doesn't like to work. Dean Martin è un uomo a cui non piace lavorare. Io sono uno stacanovista. Lui devi pregarlo per fare le prove. Siamo molto diversi. Ma siamo stati amici tutta la vita ed è stato un grandissimo compagno di lavoro. Nonostante si incontrino giovanissimi, i due non lavorano subito insieme. Le loro carriere procedono singolarmente. Dean ha un sodalizio cinematografico con Jerry Lewis, che lo porta a sfornare una serie di film di discreto successo, ma dei quali però lui non è contento. È convinto di essere un attore migliore di quello che venga fuori dai film comici con Jerry Lewis e per questo decide di interrompere la loro collaborazione, accettando alcune parti secondarie in film importanti come I giovani leoni con Marlon Brando e Montgomery Clift, Rio Bravo con John Wayne e Qualcuno verrà di Vincente Minnelli, dove per la prima volta lavora con Frank. Questo è un momento cruciale dell'amicizia e della collaborazione professionale fra i due, come racconta l'attrice Janet Leigh, moglie di Tony Curtis e grande amica di Dean Martin. Probabilmente Frank si specchiò in Dean. Erano entrambi italiani, volevano sfondare, avevano avuto tanti alti e bassi nella loro vita e ora volevano assolutamente crearsi una base solida, una carriera stabile. Frank fu molto carino con me. Gli dissero che gli serviva un attore che facesse la parte di uno che beveva tanto, giocava d'azzardo, che andava con un sacco di donne. E lui disse, guarda, non c'è bisogno di andare tanto lontano, eh? C'è il mio più caro amico, Dean Martin. Lui è tagliato per questa parte. Quel ruolo era proprio per me. È stata la mia interpretazione migliore. È proprio sul set di questo film che i due amici iniziano a gettare le basi di una collaborazione che è destinata a cambiare le loro carriere come cantanti. È in questa occasione, infatti, che nasce il leggendario Rat Pack. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop e Peter Lawford stanno cantando sul palco del Sands Hotel di Las Vegas. È una delle tantissime serate del Rat Pack, il gruppo che i cinque hanno formato sul finire degli anni 50. Letteralmente branco di ratti, il Rat Pack nasce in realtà alcuni anni prima a Hollywood, a casa del grande attore Humphrey Bogart. Tutte le sere Boogie riunisce un gruppo di amici a bere e chiacchierare. Ci sono Judy Garland, David Niven, Angie Dickinson, Frank Sinatra. Una sera, Lorraine Bacall, moglie di Bogart, guardando quell'accolita di gente ubriaca, esclama «Mi sembrate un dannato branco di ratti!» Rat Pack diventa non solo un soprannome, ma uno stile di vita che Frank, alla morte di Bogart nel 1957, decide di far proseguire. Il Rat Pack diventa un vero e proprio gruppo di artisti e le loro performance divengono leggendarie. L'attrice Angie Dickinson, mascotte del Rat Pack con Marilyn Monroe e Shirley MacLaine, ricorda il Frank Sinatra di quegli anni. Nessuno era un amico migliore per te di lui, se tu facevi parte del suo gruppo. Frank era un uomo incredibilmente generoso. Certo, aveva un caratterino. Se era arrabbiato con qualcuno perché secondo lui lo aveva tradito, poteva buttarlo giù dalla finestra. Ma era un uomo di una delicatezza unica, capace di grandi gesti. L'amicizia fra Frank e Dean diventa qualcosa di tangibile e rafforza l'autostima di entrambi, tanto che a Hollywood circola una battuta sui due. Frank Sinatra si crede Dio, Dean Martin sa di esserlo. Il Rat Pack va a gonfie vele. Oltretutto, uno dei componenti, l'attore Peter Lawford, è cognato del futuro presidente John Fitzgerald Kennedy, avendo sposato la sorella Pat. Una parentela così aiuta, non c'è che dire, ma va anche aiutata. E Frank Sinatra, che in quel momento è l'artista più famoso d'America, ha il peso e le conoscenze giuste per supportare l'elezione del presidente Kennedy. Una presa di posizione che Dean Martin non approverà mai, disertando ogni riunione o show di Frank che abbia a che fare con la politica. Ma intanto il Rat Pack e il sostegno di Dean Martin rappresentano per Sinatra il concretizzarsi di un sogno. Realizzare un film tutti insieme. E quel film si intitola Ocean's Eleven, che vedrà un famosissimo remake nel 2001 con George Clooney e Brad Pitt. Claude Trenier, presentatore del Sands Hotel di Las Vegas, ricorda quei mesi di febbrile lavoro del Rat Pack. Di giorno giravano il film e alla sera venivano direttamente al Sands per lo spettacolo. E dovunque andassero, calamitavano l'attenzione perché erano una forza incredibile. Ah, guarda, c'è Sinatra, ecco Dean Martin, lì c'è Peter Lawford e Sammy Davis. Avevano sempre delle ragazze bellissime che li accompagnavano negli show. Insomma, erano qualcosa da vedere assolutamente. La vita è bella per i componenti del Rat Pack. Sono ricchi, famosi, hanno belle donne e tutti vogliono vedere il loro show. E poi sono simpatizzanti del clan dei Kennedy. E Frank si è dato tanto da fare per supportare l'elezione del presidente, lavorando con quella stessa determinazione che caratterizza tutto quello che fa. Ma dopo l'elezione, John Fitzgerald Kennedy modifica decisamente il suo atteggiamento nei confronti di Frank. Lui ha delle amicizie un po' scomode. Viene spesso affiancato ad alcuni mafiosi e malavitosi italo-americani. E non è proprio il genere di personaggio che il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America gradisce avere vicino. Frank si sente tradito da molti, ma non da Dean Martin. Da sempre defilato quando si tratta di politica, ma sempre al suo fianco quando si tratta di cantare. E soprattutto di dimostrargli la sua amicizia. Frank e io siamo stati praticamente come due fratelli. Le cose che facevamo, le facevamo sempre insieme. Se non lavoravamo, ci tenevamo sempre in contatto. Le nostre famiglie stavano insieme. Eravamo fratelli. Lui è semplicemente una persona fantastica, unica. È un uomo con la U maiuscola. Voglio un bene immenso a Frank. È il mio più caro amico. That's life. That's love. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. Questa è la vita. Vai alla grande in aprile e poi a maggio sei a terra. Io lo so che devo ribaltare la cosa e tornare su in giugno. Tutte le volte che mi sono trovato con la faccia per terra, mi sono tirato su e mi sono rimesso in pista. Non solo una delle sue canzoni più famose, ma quasi una biografia in questi pochi versi di colui che tutti chiamiamo a ragione The Voice, il grandissimo Frank Sinatra. Oggi, ai magnifici destini, dedichiamo a lui la sua puntata. Cerchiamo di tracciare un profilo inedito del grande interprete. Un artista che forse non tutti conoscono, al di là della sua facciata pubblica, fatta di amori, divorzi, amicizie discutibili. Di Frank Sinatra si parla sempre come dell'amico dei mafiosi, come di colui che era talmente potente da poter influire sulla nomina del presidente degli Stati Uniti. Si parla di lui come di uno del quale era meglio non essere nemico. E poi si dice che aveva una voce incredibile. Ma una voce incredibile e un modo di cantare come il suo non possono essere solo un dono di natura. Sono il frutto di un duro lavoro quotidiano che Frank compie regolarmente tutti i giorni della sua lunghissima e sfolgorante carriera. I jump right on a big bird and then I fly. L'incredibile allenamento a cui Frank si sottopone per imparare a cantare mantenendo a lungo le note, una caratteristica che lo differenzia da tutti gli altri cantanti, non è l'unico aspetto poco conosciuto della sua vita. Un argomento al quale è molto sensibile il nostro Blue Eyes, come viene soprannominato grazie al colore dei suoi occhi, è l'uguaglianza dei diritti. Fin da giovanissimo Frank non sopporta il razzismo o che possano esistere ambienti riservati solo ai bianchi in cui i neri non possano entrare. Non accetta che vi siano spettacoli destinati solo agli uni o agli altri. E in questo senso il Rat Pack, il gruppo di stupendi performer tra i quali il suo amico fraterno Dean Martin, è per lui un'incredibile arma. Sì, perché Sammy Davis Jr. è nero e se nei locali entra lui allora possono entrare tutti. Negli anni 50, ma anche dopo, i neri come me non potevano andare in un sacco di posti. Io non sono mai riuscito a capirla questa cosa, che non c'era la libertà di andare dove si voleva o cose del genere, ma intanto era così. E Frank, con il nostro gruppo dei Rat Pack, metteva il dito nella piaga perché io entravo. È il 27 gennaio del 1961 e ci troviamo al Carnegie Hall di Manhattan. In cartellone c'è uno spettacolo del Rat Pack e la quantità di folla che si accalca nel teatro è davvero impressionante. Lo show è organizzato da Frank Sinatra ed è dedicato al reverendo Martin Luther King e alla sua causa contro l'apartheid e la segregazione razziale. Il reverendo ora siede in prima fila ed è visibilmente commosso, specie quando Frank intona la canzone Old Man River. Old Man River, that old man river, he don't say nothing, but he must know something. He just keeps rolling, he keeps on rolling along. È una posizione, questa di Frank Sinatra, che potrebbe anche risultare scomoda, forse anche poco in linea con le sue amicizie discutibili e con le sue simpatie politiche, ma lui non se ne cura. Lui è un grande personaggio e ha il coraggio delle proprie azioni, delle proprie amicizie, delle scelte sentimentali e di quelle di campo. Eppure chi lo vede sul palcoscenico così sicuro di sé, così perfettamente a suo agio nei panni del perfetto cantante di swing, del grande Latin lover, non deve commettere l'errore di sottovalutarne la sensibilità. Per esempio, Frank ammette di avere sempre una tremenda paura del pubblico. Lo giuro sull'anima di mia madre. I primi 4-5 secondi io tremo, ogni volta. Quando metto piede sul palco, mi domando se mi ricorderò le parole, se mi muoverò bene. Dura almeno 4 secondi, poi passa. E se qualcuno non ci crede o dice di me, no, questo non è Frank Sinatra, beh, quello non mi conosce bene, non sa chi sono io. Perciò vedi, quando tu sali su un palco, devi sapere esattamente quello che devi fare, ogni singolo secondo, altrimenti la tua performance è destinata a fallire. Un grandissimo professionista, dunque, uno di quegli artisti con i quali duettare deve essere terribilmente stimolante, ma che può anche far paura per l'inevitabile confronto. Beh, uno dei duetti più famosi di Blue Eyes è con sua figlia, Nancy. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. It was great. Quel duetto fu fantastico. All'inizio pensai che non sarei mai riuscita a farlo, che non avrei potuto tirare fuori nemmeno una nota. Continuavo a ridere. Mio padre scherzava e a un certo punto si mise a cantare in un modo buffo. Sembrava Daffy Duck. Ma sono moltissimi i duetti di Frank. Il grande interprete realizza ben due album intitolati Duets e Duets Second nel 1993-94, nei quali canta insieme ad alcuni dei più grandi interpreti della musica internazionale, da Luciano Pavarotti a Charles Aznavour, da Rita Franklin a Bono, Barbara Streisand, Liza Minnelli, Natalie Cole. Con l'amico Tony Bennett canta uno dei suoi più incredibili cavalli di battaglia, New York, New York. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. La canzone è tratta dalla colonna sonora dell'omonimo film del 1977 di Martin Scorsese con Robert De Niro e cantata da Liza Minnelli. Non ottiene un successo immediato, ma diventa una grandissima hit quando Frank decide di cantarla durante un suo concerto nel 1978 al Radio City Music Hall di New York. A riprova del peso che una sua interpretazione possa avere nella storia della musica. In oltre 60 anni di carriera, Frank Sinatra ottiene tutti i riconoscimenti possibili, vincendo ben 11 Grammy Award, oltre a un Oscar. Non c'è praticamente paese dove non abbia cantato, palcoscenico che non abbia calcato. Eppure continua a cantare fino a pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 14 maggio 1998. I don't have to work. Mi diverto, altrimenti non lo farei perché non devo lavorare per vivere. Mi diverto perché è una sfida. Sono anziano, ma continuo sempre con i miei allenamenti vocali. Trattengo il fiato, tengo le note più a lungo possibile a bocca chiusa. Oramai, alla mia età e con la mia carriera che ho alle spalle, so di essere considerato un performer al di là di ogni valutazione. Io, su un palcoscenico, mi sento a casa. Quindi, siccome ci sono palcoscenici in tutto il mondo, non c'è un solo posto dove io mi senta uno straniero.